1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Siamo qui alle 7:19 minuti in punto in questo momento a Radio 24, radio ufficiale mondiale dell'emisfero boreale, cari amici. Allora, siamo alla rassegna stampa di 24 mattino, questo è lo spazio dedicato alla lettura dei giornali. Siamo pronti a vedere che cosa ci offrono, caro Peter Bescapè? Andiamo. Anche le proprie lunedì. No! È lunedì in cui si apre tra l'altro la settima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché la 195esima decisiva per l'abolizione delle province, vogliamo mettere agli atti. Intanto in questo lunedì 23 gennaio i titoli, le aperture, l'apertura dedicata al fisco per il Sole 24 Ore, IVA, IRI, bilanci, le spine del fisco, complicazioni a cascata da nuove comunicazioni, regime per cassa, regole contabili. Tutte le novità che vedremo poi con Mauro Meazza. Mentre il gelo, il terremoto, la neve tiene ancora banco per gli altri quotidiani, l'apertura del Corriere della Sera, sisma, neve, 10 miliardi di danni. Per Repubblica allarme sul pericolo scosse, si svuotano le dighe abruzzesi. Ignorato l'allarme valanga, il titolo del Fatto Quotidiano, così il Messaggero, allarme ignorato, c'è un nome. Mentre il Giorno, caos, sisma, si volta pagina. Gentiloni, archivi al modello Renzi, più poteri a Protezione Civile a Vasco Errani. Le aperture più internazionali, la Stampa, Prodi, apriamo a Mosca anticipando Trump, Berlusconi, l'Unione Europea si muova. Queste alcune delle aperture, voglio partire proprio dalla questione di questo nome. Non vorrei, come il Messaggero mette in prima pagina, non vorrei che ora si trovasse il classico capro espiatorio per dire ecco la colpa di tutto. È vero, racconta il Messaggero, che c'è questa telefonata in cui si sarebbe identificata una alta dirigente della prefettura di Pescara che, chiamata da Quintino Marcella, uno che per primo ha lanciato l'allarme perché avvisato da un sopravvissuto dicendo qui è crollato tutto, venite. Quintino Marcella chiama la prefettura e si sente rispondere da questa dirigente ancora questa storia dell'albergo crollato, abbiamo verificato, abbiamo sentito l'albergo, la notizia è smentita, basta con questa bufala. Va bene, sicuramente non è una risposta di quelle che ci si attende in quel momento, ma adesso il rischio di gettare la croce su una risposta del genere sbagliata, come se fosse la causa di tutto questo, quando invece era già successa la tragedia con questa telefonata, il rischio c'è e non vorrei che poi si finisse per crocifiggere questa dirigente, che comunque non conosco il nome, non è detto, io non lo citerei neanche perché partirebbe un linciaggio. L'allarme ignorato, trovata la telefonista, è una dirigente. Pagina 4 del Messaggero, si indaga su una chiamata in prefettura scambiata per uno scherzo. Prima della tragedia c'era invece, e questa forse sì, sui giornali dappertutto c'è, la drammatica mail del direttore d'albergo all'illustrissimo prefetto di Pescara, al presidente della provincia di Pescara, al comando della polizia provinciale, al sindaco del comune di Farindola. Questa mail invece mandata in mattinata da Bruno Di Tommaso, amministratore unico, raccontava di 2 metri di neve, di 12 camere occupate, di gasolio che stava per finire, di clienti terrorizzati dalle scosse. Per tutto questo chiediamo di predisporre un intervento al riguardo, certi della vostra comprensione, restiamo a disposizione. Anche notate la gentilezza del tono di questa mail, ma di fronte c'era una situazione tragica. Certi della vostra comprensione. Questa mail forse è un po' più seria, è un po' più grave, ignorata per ore perché è partita al mattino e poi il nulla. Ora si cominciano a quantificare anche i danni. C'è questo titolo di prima pagina e una stima del Corriere della Sera 10 miliardi. Leggo dall'articolo di Fiorenza Sarzanini a pagina 3. Inagibile il 40% di case e scuole, 10 miliardi per sisma e gelo. L'emergenza non è ancora terminata, è già tempo però di fare il conto dei danni, perché dopo le tre scosse di mercoledì scorso, le bufere di neve che hanno travolto il centro Italia, bisogna prevedere nuovi stanziamenti. Per far fronte a che cosa? Alle necessità di una popolazione e soprattutto trattare con l'Unione Europea, che ha chiesto una correzione dei conti pubblici, ricordate, pare lo 0,2% del PIL. Allora la stima parla di oltre 10 miliardi di euro indispensabili per affrontare urgenze e ricostruzione. Una lista della spesa contenuta nelle ordinanze che il capo della Protezione Civile Curcio emette ormai quasi quotidianamente per provvedere alle necessità dei vari comuni devastati prima dal terremoto, poi dal maltempo. Ovviamente sono stime queste. C'è anche il ministro dell'Agricoltura Martina, che sempre dalle pagine del Corriere della Sera, intervistato da Enrico Marro, chiede all'Unione Europea una mano per ricostruire dal punto di vista agricolo le zone devastate. Chiederemo a Bruxelles una deroga per sbloccare più risorse. Qui si aprirà presto un nuovo fronte, evidentemente, con Bruxelles. In tutto questo c'è l'allarme dighe. C'è per esempio a Campotosto, in provincia dell'Aquila, il racconto su Repubblica degli abitanti a pagina 3. Noi con un lago sulla testa, ora abbiamo paura, se parte l'onda porta via tutto. Ed ecco la reazione degli abitanti dopo gli allarmi, dopo le frasi: ci sono controlli, un terremoto forte spazzerebbe via prima i paesi. Il timore e la necessità di svuotare le dighe. In tutto questo si continua ovviamente a scavare, ci sono le foto dei dispersi, ci sono le foto delle persone che ancora si cercano sotto la coltre di neve all'hotel Rigopiano. Tra l'altro è comparsa in qualche modo una nuova figura che in primo tempo era stata invece trascurata. Tutti raccontano la storia del senegalese Fayé, che solo ieri si è saputo lavorava lì. Disperso fantasma fino a ieri, il tuttofare dell'hotel che nessuno cercava, e ieri invece è comparso, nel senso che sono arrivate le prime testimonianze di chi dice: guardate che c'era anche appunto questo senegalese Fayé che lavorava lì come tuttofare, e ora sui giornali c'è anche la sua storia. Staremo a vedere. Viene intervistata anche dal Giorno il magistrato che si sta occupando di questa vicenda. Si chiama Cristina Tedeschini, è il procuratore reggente di Pescara, titolare dell'inchiesta sull'hotel Rigopiano. Viene intervistata da Rita Bartolomei e racconta: voglio sapere perché, per la verità non anticipa granché. Dice il procuratore Tedeschini che un'idea se l'è fatta. Entro fine settimana prossima saremo in grado di fare un punto ragionato sullo stato dell'arte. L'indagine iscritta verso ignoti per disastro colposo e omicidio plurimo colposo è normale che abbia le mie idee, ma anticipare le impressioni mi pare di poco senso. Dunque non dice granché, se non il fatto che è andata a visionare il luogo, si è fatta un'idea e si saprà. Tra l'altro, questo per dire come avvengono le cose poi in Italia, è titolare di un'inchiesta, ma non si sa neanche se la porterà avanti lei, perché nel frattempo è stata nominata procuratore a Pesaro, e quindi può darsi che nel mezzo dell'inchiesta, se non a momenti, dovrà lasciare tutto, un'inchiesta iniziata a qualche collega. Va bene. Abbiamo detto 10 miliardi, soldi, altri soldi invece che sicuramente vi metteranno di buon umore in questo lunedì mattina, voi che state andando a lavorare per guadagnare il vostro stipendio. Eccola qui, soldi che riguardano i vitalizi. È Claudio Marincola che racconta sul Messaggero a pagina 11. Racconta le pensioni dei deputati e dei senatori. Attenzione, perché questa storia dei vitalizi, questa oggi è un trucchetto mica male, se gli riesce, se riesce a lor signori. Pensione INPS ai deputati, così salvano i contributi. Attenzione, racconta il Messaggero in maniera molto dettagliata e molto precisa che il cuore della riforma che si tenta di far passare è la vecchia primo firmatario, il democratico Matteo Richetti, è una vecchia proposta di legge, si cerca di tirarla fuori nel cassetto, è quella di trasferire tutta la gestione delle pensioni dei deputati e senatori, dunque dei vitalizi, all'INPS come per tutti gli altri lavoratori dipendenti. Questo sarebbe un modo per combattere anche i 5 Stelle sul loro stesso terreno, fa sapere il Messaggero. Ebbene, però, c'è un trucchetto in tutto ciò, perché sapete che si mira al 15 settembre. Il 15 settembre praticamente 438 deputati su 630 e 191 senatori su 315 a quella data, il 15 settembre, matureranno la prima pensione, visto che sono la prima esperienza in questa legislatura. Se la legislatura finisce prima, non maturano il vitalizio, tanto che è stato definito il partito della pensione. E allora, con il passaggio all'INPS si prevede però che cosa? Si prevede di applicare il calcolo contributivo introducendo una novità non di poco conto: la possibilità di computare come anno intero ai fini della maturazione del diritto anche le frazioni di anno superiori a 6 mesi. Insomma, ve la traduco così. Secondo il Messaggero, se passa questa riforma, scatta il vitalizio non più il 15 settembre, ma a inizio luglio. Insomma, un modo per votare anche prima, salvando capre e cavoli, salvando votazione e vitalizio. Pensione INPS ai deputati, così salvano i contributi. Questo racconta oggi il Messaggero. Ma siamo all'articolo che mi fa pensare della giornata. L'articolo da Mani sul Volante. Se siete alla guida, ovviamente, rispunta il ponte di Messina, racconta Sergio Rizzo in prima pagina del Corriere della Sera. La beffa infinita. Ora lo Stato fa causa allo Stato. Succede questo, come racconta Sergio Rizzo, ci deve essere un virus che infetta la nostra burocrazia, così potente da arrivare a mettere lo Stato contro lo Stato davanti a un giudice dello Stato. Per averne la prova è sufficiente leggere l'ultima relazione della Corte dei Conti sulla vicenda forse più incredibile degli ultimi 40 anni, lo stretto di Messina e il suo ponte. Morto, sepolto, resuscitato, riesumato da Renzi, uscito di scena Renzi, è tornato nel sepolcro, ma il cadavere continua a puzzare. Si racconta infatti di una richiesta di indennizzo da parte dell'ANAS controllata dallo Stato che chiede 325.750.660 euro allo Stato più eventuale risarcimento. La ragione è il pregiudizio scaturente dalla mancata realizzazione dell'opera indotta dal venir meno della convenzione di concessione. Tutti paroloni per dire che l'ANAS chiede ora la concessionaria che vuole costruire il ponte controllata dall'ANAS chiede al ministero 325 milioni. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo. Ciao Alino, siamo Bianca, Sofia e Costanza e tutte le mattine, ma dico tutte le mattine, ascoltiamo la lettura dei giornali a gratis. Buona giornata, siete fantastici, tu e tutto lo staff. Ciao! Evviva, evviva, a gratis, senza neppure pagare il canone, è fantastico. E allora, ora a studiare però, mi raccomando, A scuola. Oh, Gentiloni ha fatto la sua prima uscita pubblica da Fabio Fazio, che tempo che fa, ieri, e non deve essere probabilmente piaciuto molto l'uscita di Gentiloni a Matteo Renzi, questo almeno racconta Repubblica. Infatti il titolo del Premier è «Vado avanti come se durassi a lungo», e poi l'Italicum intesa presto. Vabbè, è un Gentiloni che racconta Silvio Buzzanca, reduce dall'operazione al cuore, dall'angioplastica, sto bene, molto bene, anzi non dite ai medici ma ho saltato la convalescenza, dice il Premier. E poi ecco la frase: mi auguro che tra le forze politiche ci sia un dialogo tempestivo che consenta di avere una legge elettorale per Camera e Senato che non sia troppo disarmonica. E ancora aggiunge: non faccio l'indovino su quanto durerà la legislatura, non lo decido io o lo decide il governo. Noi lavoriamo come se dovessimo lavorare molto a lungo. Il tema è questo, perché è inutile negarlo. Renzi scalpita in qualche modo. Tutti raccontano, ma sì, è un governo simil Renzi, in attesa di andare a votare il prima possibile perché Renzi spera di tornare al potere. In realtà, in un retroscena a fianco a questo resoconto dell'uscita di Gentiloni, retroscena firma Goffredo De Marchis, si racconta proprio di un Renzi e dei primi malumori nei confronti di Gentiloni. Voglio durare, dice il premier, ma con Renzi è scontro. E lo scontro si è consumato su un pacchetto di nomine che erano state previste, racconta Repubblica, per stabilizzare il governo Gentiloni, con l'orizzonte di arrivare fino al 2018, quindi fino alla naturale scadenza della legislatura, anche se è cambiato il governo. E queste nomine prevedevano Luigi Zanda, presidente della Commissione Affari Costituzionali, Andrea Marcucci, un iper renziano, nuovo capogruppo del PD in Senato, Vito Di Marco, ex collaboratore di Paolo Romani, dunque di Forza Italia, che doveva invece entrare all'AGCOM. Vabbè, nomine politiche che voi magari non capite nella loro portata, ma sarebbero state frutto di un accordo tra PD e Forza Italia a livello parlamentare. Ebbene, queste nomine che avrebbero stabilizzato Gentiloni hanno fatto arrabbiare Renzi, che ha fatto silurare questo patto con Forza Italia. Questo almeno racconta nel retroscena di Repubblica Goffredo De Marchis. Insomma, il timore è che non si vada a votare così presto. E guardate che questi timori Renzi li potrebbe scovare anche nell'articolo di anticipazione che oggi Giovanni Bianconi firma sul Corriere della Sera, riguarda la sentenza che domani la Corte Costituzionale dovrà dare sull'Italicum, cioè la nostra legge elettorale attuale, quella che vale per la Camera. La Corte Costituzionale domani si dovrà pronunciare sulla costituzionalità, appunto, dell'Italicum. Racconta Giovanni Bianconi sul Corriere che questo verdetto non consentirà di andare subito alle urne. Perché? È un articolo molto molto tecnico, ma in sostanza spiega che dopo questa sentenza la Corte Costituzionale probabilmente si rivolgerà al Parlamento chiedendo al Parlamento di intervenire per rendere omogenee le modalità di voto per la Camera e per il Senato. In questo momento sono due modalità di voto diverse e quindi, chiedendo l'intervento del Parlamento, è chiaro che i tempi si allungano e le elezioni non sono così alle porte. Questo almeno sono i retroscena della politica. In tutto si muove la politica stessa, c'è il PD con Emiliano che lancia la sua sfida in qualche modo al congresso. Dunque Emiliano, confermano le anticipazioni dei giorni scorsi, si candida a guidare il Partito Democratico. Matteo Salvini, dall'altra parte, sul Corriere della Sera, pagina 9, chiede le primarie, lo chiede a gran voce da tempo e ora fissa anche una data. Si potrebbero fare il weekend prima di Pasqua, l'8 o 9 aprile, mi pare un'ottima data. Così Matteo Salvini, intervistato da Marco Cremonesi sul Corriere della Sera, rilancia questa idea delle primarie. In tutto Berlusconi a queste primarie in qualche modo risponde. Berlusconi oggi rilascia un'intervista alla Stampa. Vedete che insomma i personaggi della politica si muovono, si fanno vedere, ci sono riposizionamenti. Berlusconi in questa intervista di Francesco Bei sulla Stampa, pagina 2, per la verità a lungo parla di orizzonti europei, chiede all'Europa di muoversi, di ripensarsi, dice che Trump ha ragione su Putin, dice che l'isolazionismo della Russia di Trump stesso è un errore. Poi Berlusconi viene alle questioni di politica interna e dice: sono rimasto molto deluso dalla Lega che non ha appoggiato Tajani, cioè il candidato che poi ha vinto ed è stato eletto presidente dell'Europarlamento. E poi risponde alla questione primarie. Immagino che Salvini, dice Berlusconi, si stia ponendo un problema di leadership che è del tutto prematuro e comunque non appassiona gli italiani, che sono invece concentrati ad altri temi più concreti: il fisco, la sicurezza, l'immigrazione, la giustizia, le infrastrutture. Comunque, dice Berlusconi, la leadership non si misura sulle polemiche, ma sul consenso. E liquida così la questione, o pare liquidare così la questione primaria. Tra l'altro, uno sguardo europeo lo dà anche Prodi, che viene intervistato sempre dalla stampa pagina 3, viene intervistato da Fabio Martini e fa un appello in questa lunga intervista, un appello all'Europa, quell'Europa che dice Prodi non è più la mia Europa di fatto. L'Europa che riflette, a me pare che l'Unione Europea non abbia proprio reagito davanti alle dichiarazioni di Trump che segnano una rivoluzione nei rapporti con l'Unione Europea. L'Europa è per ora inesistente, dice Prodi, e mi meraviglia che nessuno abbia avvertito l'urgenza di un vertice straordinario. Invece occorre reagire in fretta. Anzitutto come? Beh, organizzando un bel contropiede sulle sanzioni alla Russia. In che senso contropiede? Nel senso che occorre togliere immediatamente le sanzioni alla Russia, così dice Prodi. Di questo sono fortemente convinto. Puoi sacrificarti per politiche solidali, ma se la solidarietà non c'è più, non ha senso perseverare. La saggezza di un proverbio calabrese dice: chi pecora si fa, il lupo se lo mangia. E allora giochiamo ad anticipo, senza lasciare agli Stati Uniti un ruolo privilegiato nei rapporti con la Russia. Questo chiede Prodi in questa intervista alla stampa, scusate. Tra l'altro, ecco, qui saltavo sul Corriere della Sera, invece su Trump, su Putin, si è distinto anche Beppe Grillo, che ha rilasciato un'intervista a un giornale francese dicendo: servono uomini forti. L'elogio a Trump e Putin. Una volta che ha rilasciato un'intervista, le polemiche, Beppe Grillo l'ha smentita dicendo, prendendosi coi traduttori, traditori: non ho mai detto che servono uomini forti. I giornalisti del quotidiano francese Journal du Dimanche confermano tutto. E a lei. Chiarisce tutto come sempre Mauro Meazza. Insomma, chi ha ragione, Mauro? Buongiorno. Beh, naturalmente i giornalisti non capiscono alcunché, come è noto. E quindi categoria. Perché discuterne? Categoria inaffidabile, quant'altri mai, mi verrebbe da dire. Giusto. Essendo che è lunedì, sì. È lunedì, l'ha ricordato anche in apertura la tua sigla dell'ascoltatore, sì. Io sì. Vado con l'endecasillabo. Oh, bene. Andiamo. Non tutte le ciambelle a questo mondo possono riuscir col buco, e buon fornaio non è mai stato il fisco, sì fecondo per una novità a sbagliarne un paio. Ma oggi enumeriam quel che iracondo fe lo commercialista, inver mai gaio, quando si disvelaro a tutto tondo le novità del mese di gennaio. Sul Sol 24 Ore e non in fondo vedrai cartelle, l'ace e quel pagliaio dei conti e dei bilanci, triste sfondo in cui smarrire l'ago e l'arcolaio. Non son l'esperto io che ti rispondo, però sul foglio nostro in color baio vedrai in parlare chiaro e pur profondo tante notizie da cucirti un saio. Qui vedi lo destino vagabondo del collaboratore fatto d'acciaio, che senza più discoll nel girotondo sta esposto ai venti, più di un marinaio. Vieni al tutto pensioni, amico biondo, e te le fisco segna il 2 febbraio. Io ti precedo molto più giocondo, dirotti traffico e rimo con João Maio. Alessandro Milan, ma chi è Alessandro Milan? Eccomi qua, allora alle 7:48 minuti qualche notizia legata ai soldi, vi sapete che mi piace di tanto, soldi, soprattutto se soldi nostri. Prima pagina di Repubblica, sapete nel 2016 quanto lo Stato ha pagato per ingiusta detenzione di persone, cioè persone messe in carcere, condannate ingiustamente? 42 milioni di euro è ciò che ha fatto notare il ministro Enrico Costa, che è il ministro degli affari regionali ma da sempre ha una passione per i fatti di giustizia, è stato vice ministro della giustizia e avvocato e poi insomma è figlio di un politico che da sempre si è distinto, ministro della pubblica amministrazione Costa, per cercare gli sprechi che si annidano nelle pieghe dello Stato. Ebbene, 42 milioni, tabella alla mano, racconta Liana Milella su Repubblica, e raffrontando agli anni precedenti, Costa non si trattiene anche da una polemica contro il sindacato dei magistrati, l'ANM: se dibattessimo meno di età pensionabile e più di queste profonde lesioni della libertà personale, non sarebbe male. Ci sono tra l'altro in questa tabella messa su Repubblica dei casi anche evidenti. 6 riconosciuti gli errori giudiziari nel 2016, a Brescia per 20.000 euro, a Catania ci sono costati 560.000 euro, a Catanzaro 4.000, a Perugia 3 milioni e mezzo, a Reggio Calabria 6 milioni e mezzo. Ovviamente colpiscono quelli di Perugia e di Reggio per l'imponenza della cifra. Lo Stato ha pagato oltre 10 milioni, ma i casi sono 6 in tutto. E va bene, chi paga tutto ciò? Chi paga per gli errori commessi? Nella riforma del processo penale, se mai sarà approvata, lo stesso Costa ha previsto una relazione annuale al Parlamento con i dati delle ingiuste detenzioni, relazione che ovviamente non piace affatto all'Associazione Nazionale Magistrati, cioè al sindacato dei magistrati. Soldi, soldi! I soldi invece di tutti i risparmiatori. C'è una bella pagina di Andrea Greco su Repubblica, pagina 17. L'Italia che non rischia più, le famiglie che fanno pochissimi investimenti e tengono i soldi in banca, fermi. Le paure bancarie di fine 2016 hanno accentuato la tendenza all'accumulo finanziario. 83 miliardi di euro l'anno scorso hanno ingrossato i conti correnti delle banche, malgrado il tasso offerto, lo striminzito 0,09 sulle giacenze libere. Eppure milioni di cittadini, imprese e le stesse banche non immettono denaro nel circuito produttivo. Il volano dell'economia diventa palude. Dalla fine del 2007 l'ammontare dei depositi bancari è aumentato da 1.000 a 1.367 miliardi di euro, sui quali le banche pagano un tasso medio del 0,40%. Dunque l'Italia non rischia più. C'è tutta l'analisi interessante su Repubblica. I consumi restano bassi, i risparmi non vanno a finanziare la produzione. Solo nell'ultimo anno i depositi sono aumentati di 83 miliardi di euro. Soldi, soldi, c'è una bella inchiesta del giornale Maria Sorbi che racconta, questa forse soprattutto interessante per i più giovani, ma non solo, visto che ai concerti di musica vanno un po' tutti, ma soprattutto i giovani, qual è il meccanismo per cui i biglietti dei concerti, dei grandi concerti, spariscono nel giro di pochi minuti per poi essere rivenduti nel mercato del secondary ticketing, cioè lo sbigliettamento, diciamo, secondario, a cifre improponibili. Maria Sorbi, il giornale, ore 10, la prevendita dei biglietti degli U2, attesi a Roma il 15 luglio. Ore 10.05, online, nemmeno più un biglietto. Un po' strano che 70.000 posti spariscano in pochi minuti. Ore 10.06, un minuto dopo, l'allarme sold out. Non è reale, i biglietti rispuntano su vari siti, ma a prezzi rincarati fino a 30 volte tanto. Lo stesso giochino capita per i Guns N' Roses, i Radiohead, i Green Day, i Kiss, passando per stadi, palazzetti, senza escludere i concerti della Scala. È il cyber bagarinaggio, lo scandalo dei concerti che non si può chiamare truffa. Perché racconta bene il giornale, al momento tutto procede nell'ambito della legalità. Legali sono i software che in pochi secondi fanno incetta di migliaia di biglietti dai canali di vendita ufficiali per rivenderli a prezzi folli. Legali sono i siti che propongono i ticket a tariffe che nemmeno una settimana Ibiza. Legali i biglietti d'oro. Eppure qualcosa si muove. Il Tribunale di Roma esamina denunce ed esposti. La SIAE lunedì scorso ha presentato un ricorso contro il caso degli U2. E poco prima di Natale ha accusato le società che rivendono i biglietti online di truffa aggravata ai danni dello Stato. Beh, è interessante questa inchiesta del giornale, la faccio vedere anche sulla mia pagina pubblica di Facebook. I biglietti dei concerti 30 volte più cari, per ora tutto è legale, ma qualcosa si muove. A rimetterci poi sono le persone e coloro che devono spendere soldi per vedere un concerto. Soldi, soldi, così voleremo in terza classe. Attenzione, Leonard Berberi racconta sul Corriere della Sera che sta per spuntare sempre più la terza classe anche in aereo. Attenzione, però, ci sono i rovesci della medaglia in questa tariffa basic che spunta negli Stati Uniti. Che ne so, si arriverà a non avere a disposizione neanche la cappelliera sopra il vostro posto, cioè non potete utilizzare nulla, ci manca solo che vi danno un paracadute in caso di emergenza per la quarta classe. Insomma, voleremo sempre più, scegliendo la tariffa, ma anche tariffe come quella che non prevede di utilizzare neanche la cappelliera, cioè dovrete mettervi un bagaglio che sta solo, ovviamente, sta solo sotto il sedile, ovviamente niente cibo, niente acqua, niente bevande, tutto a pagamento. Posti non vicini, per cui viaggiate in quattro, magari con dei bambini, uno è davanti, uno dietro. È la terza classe degli aerei, volete pagare meno, e questo è il risultato. Va bene, soldi basta, soldi basta. Siamo all'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi vado sulla Stampa, dove Marina Rissone racconta questa straordinaria professione di una ragazza che si è inventato questa professione. Non dog sitter è abbastanza diffusa, è la wedding dog sitter, la wedding dog sitter. E voi dite, che farà mai con questo matrimonio? Insegna al suo cane a portare le fedi in chiesa. Cioè, a un certo punto arrivino le fedi, e parte un cane che porta le fedi all'altare. Ma chi se ne frega!